Ad un anno dalla sua fondazione, la rete del nuovo municipio convoca il suo secondo incontro plenario il 13 novembre a Bologna. Tra i temi centrali, la sovranità dei municipi e l'autogoverno dal basso come nuovo paradigma della democrazia. Ne parliamo con Salvatore Amura, del coordinamento della rete del nuovo municipio e assessore alla partecipazione alla cultura del comune di Pieve Emanuele. Salvatore, i municipi si incontrano a Bologna per discutere soprattutto di federalismo municipale come opzione al federalismo regionale, dal quale però di fatto le amministrazioni locali e comunali si trovano ancora a dipendere. Io credo che oggi il tema importante sia quello del municipalismo federativo, che guarda a una dimensione diversa rispetto alle modifiche costituzionali che hanno introdotto la devolution nel nostro paese, che in realtà tendono a sgretolare quella che era l'idea di unità nazionale come unità di diritti, come unità di accesso ai servizi, soprattutto per le fasce più deboli. E poi c'è un elemento importantissimo, vediamo ancora dalle ultime ore, dalle notizie che ci arrivano nelle modifiche della finanziaria, il municipio, che è l'entità periferica più vicina, più attenta alle esigenze dei cittadini, è perennemente sotto attacco economico rispetto ai tagli, rispetto alla minore capacità di intervento e di autogestione dei propri servizi, delle proprie peculiarità finanziarie, delle politiche del proprio territorio e così via. Ad un anno dalla prima assemblea nazionale della rete del nuovo municipio, che senso dare oggi alla democrazia partecipativa? Speriamo che Bologna possa essere un ulteriore trampolino di lancio per tutte le tematiche che noi portiamo nei territori come tematiche concrete di lavoro. Guarda, noi su questo siamo anche abbastanza netti, nel senso abbiamo sempre detto non ci interessa distribuire bollini di giusta pratica partecipativa, o io credo che quello che interessa è sviluppare nei territori progettualità e sperimentazioni, e credo che in questo la partecipazione non sia un fenomeno che appaghi, credo che sia un fenomeno che debba produrre nuove conflitti e nuove rivendicazioni alla cittadinanza, per cui un po' quello deve essere al centro anche del processo politico, cioè si decide, si fanno partecipare i cittadini in merito a politiche sostanziali, per cui a scelte fondamentali del territorio, e la partecipazione non è un nuovo metodo concertativo per calmierizzare quelli che sono i processi sociali, ma anzi deve essere uno strumento per produrre nuove rivendicazioni, nuove consapevolezze nei cittadini e magari anche nuove responsabilità, perché no?